Senti, tu sai dirmi come nascono i bambini, lo sai dire? Se me lo dici bene, guarda, ti faccio un bel regalo. Dillo a te. Come dalla pancia? Dalla pancia, lo filore, lo filore, filore. La lavatrice porta il fiore nella bocca. Come? La lavatrice. Levatrice, dimmelo tu, Salvatore, dimmelo tu. Come nascono i figli? La lavatrice. Tutta la borsa. Sono il filone. Senti, come nascono i bambini, lo sai? Come sei nato tu? Non lo sai? Non lo sai? Lo zio mio. Zio mio. Zio. Lo zio tuo? Sei nato, ti ha portato uno zio? Sì. Mi ha portato la cicogna. Ti ha portato la cicogna. E tu come sei nato? Di che? Sono sotto il cubetto. Vediamo un po' chi di voi potreste dirmi come voi siete nati, come nascono i bambini, chi me lo sa dire? Tu lo sai dire? Lo sai dire? E tu Matteo lo sai come sono nati i bambini? E tu? E anche tu? E tu? Vieni qui. Non lo sai. Non sono nati sotto i fiori, sotto i cavoli, non le portate la cicogna, no? No. E allora come sono nati? Come sono nati, piccerini? Come nascono i bambini? Non lo so. Tu lo sai. Tu lo sai. Io no. Dillo tu.